Ho appena cenato con i miei genitori che non vedevo da un po' perché sono stato a Helsinki, a San Pietroburgo, e siccome domani vado a Torino, così dovevo... È vero, perché hai viaggiato un sacco anche tu, ma non è che eri venuto a cercarmi? Che anch'io sono venuto a cercarti a Helsinki e mi hanno detto prova a San Pietroburgo, allora sono andato a San Pietroburgo ma non c'eri neanche lì. Infatti ho incontrato Enzo Fornaro che ti saluta, ma... Caro Enzo Fornaro, che è stato un ospite del Coxo, immagino. No, però magari potrei cercare di averlo. Invece volevo capire, si è capito o non si è capito? Che quando ricomincerà il nuovo palinsesto, che naturalmente per noi è lo stesso palinsesto di prima, non si è capito però se rimaniamo al venerdì alle 7 o no. No, perché dobbiamo fare i cambi, come con le figurine, okay. con gli altri redattori. Ma siccome noi non abbiamo merce di scambio... No, abbiamo una bellissima fascia oraria. Bene quando c'è la sì, l'eventone dell'anno, la riunione di palinsesto. Abbiamo la Claudia in forse W Day che si sta allontanando. Io stavolta dal riesco a venire, incredibilmente. Dai, e quando è che forse io no? Ah, ecco, perfetto. Allora vestiti bene tu. Aspetta che Claudia, avvicinati al microfono. No, è perché siete molto, molto, riderei continuamente. si sente che siamo una coppia rodata un po' alla Mondaini. Assolutamente sì. Va bene. Ma è che li separa. Infatti per questo non facciamo mai un programma insieme, se no, infatti, hai capito. Quanto tempo è? No, in realtà non è vero, l'abbiamo fatta un paio di mesi fa, dai, non è tanto. Sì, con i nostri ritmi. Comunque... No, io piuttosto mi scuso con i nostri numerosissimi radioascoltatori che ho messo tre volte la stessa replica, perché si è rotto il computer, non potevo fare niente, per cui l'ho ripetuta. Ma se avevo tutto il database potevi metterne un'altra, vabbè, non importa. Ma mi si è rotto il computer, presente cosa significa mi si è rotto il computer? No, è tragico. È tragicissimo, già il fatto che stia continuando a sopravvivere nel mondo digitale è già qualcosa. Va bene, comunque non parliamo di noi, parliamo della tua ospite. Sì, infatti, che cosa ti vogliamo dire? Che cosa ti dico della Claudia? Le mettiamo il W? Cioè, perché in realtà... Lei è una mia amica, l'ho conosciuta in giro per, sai, eventi, aperitivi, queste cose che si fanno a Bologna Centro, che tra un po' comincerai a fare anche tu, che appena finirai col trasloco. E mi è sembrata estremamente sul pezzo, sempre in linea con la tendenza, simpatica, bella voce, grintosa. Ho detto, ma scusami, visto che io mi trovo spesso senza il mio co-conduttore, magari non è che ti vuoi mettere un po' il W, essere la mia co-conduttrice in W fin quando non c'è? E allora ho detto, dai, vediamo se mi piace il coxo, vediamo, perciò dobbiamo fare bella figura. In realtà siamo qui anche per farci raccontare un po' qual è il suo gusto e attraverso questo anche cose e eventi che accadono in questa bella città, perché la nostra Claudia ha dei gusti molto eclettici, che spaziano di qua, spaziano di là. Sì, dai, come diciamo. Sì, infatti secondo me può nascere... E fra Bologna l'altro... è molto eclettica, no? Sì. Bologna è eclettica. Teatro di eclettica, sì. Non lo so neanche io dire. Io direi che Bologna è eclettica. Bravissimo, esatto, è eclettica. Vabbè, questo era un po' da faccia al muro. È un po' muro, alla bolognese, però... capito? tipo lo smarino, L apostrofo o smarino, capito? È così, è eclettica. È staccato eclettica. Mi devi impiantare qualche cromosoma bolognese, perché sennò io non ci sto dentro. No, comunque, fra l'altro, voi avete in comune anche una cosa... estremamente interessante, che secondo me il clettismo. Quale? A parte il clettismo, che quello ce l'ho anch'io, ma voi ci avete questo amore, passione, rapporto da tanti anni con il punk. Infatti io quasi quasi, visto che se abbiamo delle facendo un po' la media di tutti gli orari diversi che ci sono in questo studio, dovrebbe essere giunto il momento di... Potremmo mettere il primo brano che ci introduce anche su quello che sarà il primo ospite, forse anche l'ultimo. Sì, che il brano non è molto punk, se è quello che avevamo deciso prima, però comunque va a descrivere il top di gamma, permettetemi questo termine molto bolognese. Che mi piace, perché è proprio sul pezzo. Del punk bolognese, nel senso del periodo. E allora, quindi... Bolognese del punk. Che non sono i Ghigna Ghigna Wash. mi spiace. Ah, incredibile. Anche perché quella era già il periodo decadente del punk, devo ammettere. E allora io quasi quasi partirei con questo brano e vediamo se è questo, vero? Funziona, no, non è questo. Prima di tutto. No, perché c'è un po' di macelli, sai, da tanto che non faccio la regia. No, ma adesso ci siamo, adesso ci siamo. Adesso io sfumo la musica di sottofondo e vado su con un pezzo dei Gods Nevada. Ciao Stefano. Ciao. Ciao. Ciao. Thank you. Muppet. E quindi questo è il pezzo che ti ha fatto innamorare dei Guns. Ops, non ci sei? Ci parla un attimo? Sì, sì. Ah, ok, sei tornata, che c'è un po' di sensibilità sui cursori. Sì, mi trovavo a Bologna da... cioè, sono capitata a Bologna perché io non sono una bolognese. Da dove vieni? Vabbè, sono romagnola, sono vicinissima. Vabbè, ecco perché sei però così... fuori, comunque qua gioco fuori casa. E dicevo, cacchio, ma questa è la città dei Gas Nevada. Assolutamente, ero veramente decisa a conoscerli. E così è stato. Perché, così è stato. Perché fra l'altro la grandissima attrazione, cioè proprio la super mega galattica sorpresona, non ho neanche chiesto a Stefano che numero di puntata siamo arrivati, mannaggia, di questa super mega galattica puntata di Coxo Spaziale, è che abbiamo un super mega galattico ospite telefonico, niente po' di meno che Marco Dondini, batterista dei Guns Nevada, che è qui al telefono con noi per interposta persona di Claudia. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao, grazie per essere qui al Coxo con noi, essere salito sul nostro Coxo. Yes. E allora, insomma, io adesso ti lascio un po' a chiacchierare con Claudia, che bene o male, insomma, così ci dà le sue dimostrazioni di quanto sappia. No, adesso dove? No, va bene. Ciao Marco Dondini. Ciao. Cosa stavi facendo? Ti disturbiamo con questa chiamata sorpresa? No, sapevo che si chiama quest'ora, quindi mi ero preparato, sì. Claudia, redattrice del Super Radio Più, che anche avvisa gli ospiti prima di chiamarli. Sì, lo sapevo, in bagno che mi sto facendo la barba. È un salto di qualità per il Coxo, no dai, sto scherzando però. E quindi noi abbiamo, innanzitutto molto probabilmente, sempre che a questo punto il Coxo passi l'esame qualità per la nostra ospitessa, probabilmente tramite Claudia, che si metterà il W e diventerà una co-conduttrice occasionale, molto probabilmente tu verrai qui in studio da noi e avremo l'occasione di disanimare quelli sarebbe che sono molto bello. Quella che è stata l'arte punk anche come cultura nel social vissuta proprio dall'interno, perché i Guns Nevada sono una colonna portante di tutto quello che è stato e anche che è, tutto sommato, si spera. Marco, ti ringrazio. Ciao, ti ringrazio innanzitutto per aver accettato questo invito. Tra l'altro devo dirti che io mi trovo nei tuoi stessi panni, perché questa Fedra sì me l'ha detto proprio all'ultimo minuto, e naturalmente le prime persone che mi sono venute in mente sei tu e Gianluca Gagliani, che spero di incontrare insieme a te. Trascinare in radio. Assolutamente sì, va trascinato in radio. Innanzitutto, come stai? Cioè, la musica, che punto è con te? Perché siete stati comunque, come dicevo prima, mi sono trovata a Bologna e nella città dei Guns Nevada, e ho voluto assolutamente conoscervi. Cioè, ho iniziato, così lo sanno anche chi ci ascolta, ho iniziato a contattare Gianluca Gagliani, che è il tastierista dei Guns Nevada, su Facebook, a mandare dei messaggi, adesso senza tampinarlo, però insomma ci tenevo, e sono arrivata a una vostra festa, vi ho beccati tutti quasi, insomma è stato bellissimo. Però insomma adesso è un po' che non ci si sentiva. Raccontami un po' tu, Marco. Sono contento, è una trasmissione sulla musica, no? Sì, immagino. Sull'arte in genere, perché poi tu ti sei vissuto quel periodo in cui certo, la musica sì, era lì di mezzo. Di mezzo c'erano tanti fumetti, infatti poi ero un po' canzoni anche fumetto, quelli che facevamo un po', era la tendenza del tempo, era molto immagini su immagini, eravamo un po' questa tendenza, ma d'altronde tutti quanti, due almeno, quelli che scrivevano i testi facevano anche fumetti, non a caso, quindi sono stato beneficiato e sono contento che si possa parlare di musica, perché secondo me... Beh, sei un testimone diretto, cioè... Sono un iper beneficiato. Cioè, assolutamente sì, un sopravvissuto. No, sono beneficiato perché mi è rimasto un amore per la musica, tipo proprio... vorrei fare proseliti nell'obbligo di fare musica, perché in effetti, come noi già avevamo capito, non c'era niente di meglio da fare. Ma senti, mi aggancio io, perché alla fine sto coxo spaziale si occupa non di un'arte in generale, ma di un po' l'arte, perché smuove questo processo di creazione, di creatività, che secondo noi rende le persone delle persone migliori, insomma migliora la vita delle persone. E qui una domanda che spesso e volentieri mi sorge spontanea dal cuore, che magari potrei girarti anche a te, è: perché lo fai? Così da capire che cos'è sto quid che viene fuori da questa espressione artistica, che per te è la musica. E quindi magari potrei anche chiederti: ma tu adori suonare? Se sì, perché? È una domanda, infatti, la cui risposta è il senso, il motivo per cui vale la pena adorare uno strumento e poi soprattutto suonare con gli altri. Il motivo per il quale è necessario farlo, alcuni hanno avuto modo di provarlo, non tanto nel successo quanto nel fatto di essersi trovati magari a essere creativi insieme a degli amici, magari non solo in ambito musicale, perché poi noi per esempio facevamo sempre anche tutta la parte grafica, manifestini, scritte, testi, cioè insomma il fatto di aver avuto il culo, perché poi alla fine cioè, non è che sì, certo, uno magari annusava gli spazi migliori, per cui ed è stato in un posto dove c'erano altri creativi, dove ovviamente è nata questa cosa, però insomma è la fortuna capitarci in quel momento, e quindi almeno partecipare a un evento continuo, perché lì c'era sempre persone che disegnavano, facevano tavole di fumetti, c'era partenza, c'era scorta, insomma è stato abbastanza da un certo punto di vista un incontro fortunato, cioè nel senso lo spazio-tempo di Bologna in quel momento non si è più ripetuto, lo possiamo dire, cioè è così, cioè, l'impressione che ho io adesso, vivere Bologna adesso, quello spazio-tempo lì non c'è più. È cosa che io credo che fondamentalmente, almeno fino a nel periodo in cui noi eravamo abbastanza convinti che era possibile, era ancora un periodo in cui la gente poteva essere convinta che era possibile tutto, cioè in quel momento noi pensavamo che la nostra musica e le cose che vedevamo erano cose diverse da quelle che poi sono successe, ma noi vedevamo un mondo diverso, era quello di cui parlavamo, cioè insomma, e ci si poteva credere una volta, nel senso che cercavamo di cambiare le cose, quindi eravamo convinti che il mondo del futuro sarebbe stato probabilmente molto molto diverso da come è oggi. Sicuramente. Ma in un modo o nell'altro non si indovina mai, va sempre. No, il nostro era un terrore poi, perché vedevamo la china brutale che stava prendendo la situazione. Però gli spazi di creatività che si sono raccolti in quel momento a Bologna, sarà perché eravamo in molti, sarà perché appunto ancora non c'era. Le cose erano diverse da come sono adesso, però insomma. Sicuramente sì. Ed è proprio di questo che sicuramente avrei tanto piacere che tu venissi qui a raccontarcelo, a parlarci di persona, dedicandoti una puntata intera del programma, perché ovviamente quello di cui stiamo parlando è qualcosa che esula da semplicemente un genere artistico che può essere la musica, ma proprio spazia nella coesione, in tutto quello che ci è caro e che ci serve. Un anche pezzo di storia della musica in tutti i sensi, cioè, sì, assolutamente. Intesa come cultura musicale, come infatti poi era estremamente, cioè voglio dire, non è che uno faceva musicista e basta, cioè non esisteva il fatto che lì in clavature nessuno, cioè uno era lì per essere il musicista del gruppo, no? Cioè, si disegnava, abbiamo fatto delle sceneggiature per dei film che non sono mai usciti insieme ad Andrea, cioè comunque cercavamo di lavorare nell'ambito, ovviamente sapevamo l'importanza dell'immagine, anche se ancora esistevano solo i primi, mi ricordo la prima Bollier, i primi videotape, già eravamo lì, e infatti non a caso Renato De Maria e Giuli sono usciti i registi, e anche come si chiama Fabio Sabioni sono usciti da quell'ambiente lì, cioè voglio dire, non solo pazienza, cioè, voglio dire, le arti erano lì perché concentrate, perché era un momento in cui cazzo aveva voglia di cambiare tutto, sì, le arti era. Però si diceva anche la relazione umana, no? Mi viene il voglino di chiederti un'anticipazione della puntata che sarà, e chiederti: ma come vi siete incontrati, come vi siete presi, da dove siete sbucati fuori? Già, si può? Beh, certo, sì, tutto si può, certamente. Se non altro ci può servire a qualcuno di farsi venire la voglia di adorare uno strumento, come ancora adoro io la batteria. Come l'hai trovata la batteria? Come hai cominciato ad adorare? La batteria ha trovato, cioè, insomma, io non l'ho mai neanche, cioè, quando avevo 3 anni e mezzo già avevo capito che la batteria è il mio strumento, perché con le pignate della mamma. Verso i 4 anni ho avuto la fortuna di vedere un batterista, perché ho fatto lo Zecchino d'Oro, insomma, facevo il corretto. C'è il pregresso. E il batterista chiese a mia madre se poteva darmi delle lezioni di batteria, perché diceva 4 anni, ma io in effetti mi ricordo che la batteria, come la vedi, era già sicuramente il mio strumento. Non è che... Sì, anche se era grande come un'astronave, mi sa, in proporzione, no? Sì, mi piaceva, cioè, mi piaceva da matti. Quella l'avevo già capito subito, che infatti ho sempre suonato, chiaramente, fin da cinno, quindi. Ah, che meraviglia! E poi bellissimo, vorrei il video del tuo exploit, lo Zecchino d'Oro. Sarebbe meraviglioso metterlo in contesto con il panchettaro. Subito il titolo. erano i tempi di 4 più Crato di Norrlandia, per cui avevano fatto un correttino di 4 bambini che cantavano. Ah, quindi eri che tipo... cantavano, sì, facevano i cori, e infatti ero tipo boy band. Avevo 4 anni, non è che, quindi proprio ero il più piccolo, ovviamente. Bellissimo. Di tutta la cosa, e mi ricordo quella batteria, che me la ricordo come adesso. Ma ti ricordi anche il pezzo che cantavi? Certo, era la zanzara. C'era una zanzara in alto, insomma. Comunque il pezzo era molto bellino. Noi facevamo zin zin zin zin zin zin. Ah, meraviglia. Cioè, praticamente poi, eri il corista di questa, esatto, nuova c'era boy band. Una beata, c'era una beata, per quanto c'era una beata che ci insegnava, che era Maria Leventre, che poi l'ha beatificata, che è strano perché in mezzo ai santi, poveretta. Beh, insomma, cioè, diciamo che lei in mezzo ai santi, e tu poi hai fatto, non mi viene la metafora o il cambio, comunque diciamo che lo Zecchino d'Oro ha creato la base, perché la batteria è anche un po' la base. No, quello è tutta un'altra storia, veramente. No, io ho donato la batteria, eccetera, però quello che adoro di più della musica è che insieme agli altri puoi fare anche creazione, cioè questa è la cosa meravigliosa della musica, cioè, ti metti insieme, tu suoni il ritmo, gli altri suonano le altre cose, insieme fai ballare, cioè, questo l'ho scoperto solo dopo, quindi l'amore per la batteria era una roba così da neonato, sin da quando ero piccolo, ma sì, in beh, più comunque... c'è il fatto di aver avuto la fortuna, che poi dopo non è saltato per aria prima di emanciparsi come gruppo, così non ha rischiato di Quindi adesso cioè, ti abbiamo tenuto in ostaggio per tantissimo tempo, yes. Quindi siamo in procinto di rilasciarti. Vabbè, io sarei qui delle ore, dei giorni, cioè, c'era una volta e la favola, la vorrei sentire tutta. Non prima però di aver anticipato che quando verrai a trovarci, e se riusciamo a portare anche qualche altro elemento, sarà il benvenuto, che qua ci si sta, c'è spazio, stiamo comode, e con anche dei gran maschioni si sta anche meglio. Ci porterete anche un bel po' di gruppi, potremo costruire un po' la storia della vostra crescita e del movimento insieme a dei brani fondamentali, a partire dalla zanzara dello Zecchino d'Oro, che è un evergreen. Comunque, del punk. Sì, beh, molto punk la zanzara, eh? Guarda. La zanzara faceva addormentare i bambini, il neonato. La musica era un modo per poter portare la calma. Ed è anche la specie dominante. Un bambino che piangeva. Ed è anche la specie dominante qua in pianura padana. Cioè, quindi... Esatto, la canzone è abbastanza. Onoriamo il vero domine. Allora, Marco, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, e ci sentiamo prestissimo. Grazie, Marco. Allora... Grazie, a presto, allora. Pronto? prossimamente. Guarda, okay, che ti cerchiamo, ti cerco. Non avrai tregua. Se mi aiutate ad andare a prendere Gianluca, lo trasportiamo dentro il microfono. Sarà fatto, sono anche automunita, quindi non c'è scampo. Lo andiamo a prendere, guarda, Marco, ci mettiamo d'accordo, lo carichiamo. Non è la macchina, lì è che bisogna trascinarlo, perché sì, ma so anche fare, so anche caricare di peso le persone, quindi non c'è problema, non c'è problema. Grazie ancora. Allora, saluto Marco, a presto, grazie. Ciao a tutti, ciao. E adesso direi, dopo aver parlato di musica, sì, come occasione di socialità, di farla insieme, direi, ma perché non ci sentiamo un brano di uno che invece, anche se c'è il gruppo, fa tutto lui, e se tipo? Qualcuno osa fare qualcosa di diverso lo bastona? Tipo il mio cantante preferito, che è il cantante dei Dirty Projectors, che in realtà è sempre lui. Ottimo! Però prima un gingolino. No, dai, direttamente il gruppo così. What's up? How's it going? Be a real cheap bum. She is so dreamy, like she got features on Fellini. Deadpan, unimpressed. Archimedes, palimpsest. Just hanging out, all Julian Casablanca. She is an epiphany, of a relay. Just a day, opens my days, like she always grew. Affinity, M-A-A-A, in all the ways, she's a rage through. Under the sun, there's nothing new, but she keeps it one on, treading the shade, she's a breakthrough. She is so wild, Middle Earth, highbrow. Her line is Pablo, but her color's five, so what about it? Just to review, she will a breakthrough. Nobody stops her, no one can lock her down. She is an epiphany, of a relay. Opens my days like she always knew. Cox spaziale, Cox spaziale. Cox spaziale. Ci stava un po' della vecchia Shinai, che sono passati gli anni ma noi siamo dei nostalgici. Questa la dedico a Stefano il W, che sta con i suoi genitori suoi, perciò non l'ha sentita. Va bene, ma quanto mi piace il mio cantantino preferito, Dave Longstreth. Aspetta che qua proviamo a sentire se ci sei. Parla. 1, 2, 3, prova. Eccoci, ti piace. In diretta per la puntata numero boh di Cox Spaziale. L'arte come non l'avete mai. E neanche questa puntata. No, non è vero. In realtà, Claudia, mi hai portato un ospite che non ho parole. No. E poi è anche simpatico. Cioè, proprio veramente. Che sai, di solito questi il qui. Il dondo? Questi qui un po' si danno un po', come dire, è io di qua. Invece no. Ma scherzo. Sì, infatti non vedo l'ora che torniate, sempre che il coxo ti stia facendo una bella, perché una volta che ti smetti il W poi non lo togli più. Devo dire che all'inizio ero abbastanza, mi guardavo attorno, non riuscivo a capire bene ma dove mi sta portando la Fedra. Sì, poi il dondo mi ha inondato di Marco Dondini, mi ha inondato di fiducia. Dai, allora ci si può ragionare, fare. Ci si può ragionare. Sì, e a proposito, perché loro sono forse quasi anche un motivo che rendeva Bologna così attraente, anche il motivo per cui sceglierla come luogo di studio, perché per quello sei arrivata qua a Bologna, mi immagino, no? Sì, diciamo che allora tu prima hai detto punk, io qui devo fare, e poi abbiamo fatto ascoltare questo pezzo, e invece è più elettronica, sì, no? Io sono più un amante dell'elettronica. Eccola. Cioè, sì, perché il punk, perché io poi ti ho sganciato lì il mio senza cantante preferito, però effettivamente io so che tu, in quanto cap, sì, ho anche questo soprannome. Sì, cioè, sì. È una e mille. Nessuno, 100.000. Ecco, sì, punto. Tra l'altro. E hai anche un passato da DJ. Sì, che spero anche da presente, insomma, non solo passato. Nel senso, io mi sono trovata a Bologna, facevo conservatorio, facevo composizione e un amore smisurato per la musica elettronica. Ma io prima non scherzavo quando dicevo, cioè, studiando nei libri di storia di musica, cioè, mi sono trovata i Gas Nevada proprio sui libri. Cioè, non è che... È vero, già in quegli anni, ma sì. Bologna, cioè, che cos'era? Si studia la musica elettronica, ma Bologna era la New York di adesso, ma forse anche di più, cioè era per quanto riguarda veramente la musica, cioè la ma no, come diceva prima Marco Dondini, prima non è che, cioè, c'era questa zona che era in via Clavature 20, c'era questo Traum Fabric, lo chiamavano Traum Fabric, ma era una Traum Fabric. Sì, wow, storico, che bel nome. Sì, tutti si incontravano lì, ma come diceva prima Marco, cioè, chi si dedicava al disegno piuttosto che alla pittura, piuttosto che alla musica, piuttosto che alla fotografia. E lì c'eri anche tu, che sei partita. Magari, no, non c'ero. Io li studiavo sui libri e dicevo, magari, e dov'è questa Bologna? E per quello poi che ho voluto risollevare questa storia, che secondo me comunque è cara a tanti, cioè a tantissimi, insomma, non sono certamente l'unica, è la prima. E anzi, è una storia che, trasmettendocela, riraccontandocela, mm-hmm, potrebbe magari in qualche modo influenzare anche le sorti, sì, di presente. Sì, no, cioè, perché tutto sì. Solo a dirlo mi sento un po' di... Non ci pensare, Fedra, non ci pensare. No, quindi comunque, tu hai studiato musica elettronica al conservatorio. Sì, poi c'è stato un periodo che ero veramente spinta, ho vinto questo concorso della Nokia. Anni fa la Nokia faceva questi concorsi per tutti i tipi di arte, io ho partecipato nella sezione musica elettronica e mi sono fatta un'apertura di concerto all'Alcatraz di Milano. Bah! Alla grande. Bah! Poi sai com'è, sono quelle cose che forse questo argomento si può molto sviluppare con i Gas Nevada. Cioè, il mondo musicale è un mondo stranissimo, lo teniamo là. Questo argomento si può anche sviluppare col coxo, che magari ci passi qualche bella playlist oppure anche musica di sottofondo a cura della cap. e sì, siamo tutti molto contenti, soprattutto chi ci ascolta. Io prendo le musichine a caso, però invece così ci facciamo un bel discorso strutturale, che lo voglio far da tanto, sta cosa di avere il conduttore coxico, come lo chiamiamo per la musica, il cocco dugia, non lo so, insomma verrò quello, fuori col nome, quello. E tornando un attimo alla musica, io direi che adesso, che sono comunque completamente stravolta da tutte queste novità che mi hai dato, direi che tornerei un attimo a una musichina, facendo anche un omaggio all'amica del coxo Roberta Giallo, che ha vestito anche il W, che domani è a far concerto a Cesena. E quindi il mio pezzo viene a casa mia. La Robby? A Cesena, hai detto. Beh sì, è vero. Vieni a casa mia, c'è uno scambio di beni. Sì. Bene. E allora metto il mio pezzo preferito della Roberta Giallo, che è Fuligine, registrata con Pier Mattei, in occasione di uno che era la sigla di uno spettacolo teatrale dei suoi salotti in giallo. E ci sentiamo tra pochissimo, perché è un brano breve e molto molto bello e simpatico. Ti fanno i complimenti e ti danno consigli finti. C'è chi spera che ti sbagli. Uè, tanto prima o poi ti spogli. Intelligente ma non troppo, e la scemenza che fa colpo. Ci serve un pezzo bello fresco, non puoi essere depresso. Questa è solo fuligine, ah, fuligine, resta solo fuligine, ah. Datti una motivazione per la tua emancipazione, fatti fare un tatuaggio, oh, oh, oh. Scarrafone o scarrafaggio, oh. Metti pure il parrucchino, ci vuole un look più sbarazzino, delicato ma non troppo, oh, oh. Né sfigato né finocchio. Occhio. Fuligine, questa è solo fuligine, ah, fuligine, resta solo bisogno di una mano, perché tu non sei nessuno. Io so quello che ci vuole, io maneggio le pistole. Bang, bang, bang, bang, bang. Questa è la sua strategia, mi ha portato a casa sua, ha tirato fuori l'arma. Metti qui una bella ferma. Labiale, io non sono un cantautore, io posso farti male perché non so cantare. Ehi, ci vuole un po' di graffio, mi sembri un epitafio. Sai che fa successo solo quello che fa schifo. Schifo. E allora io ti faccio il tifo, ma tu fammi schifo. Fuligine, questa è solo fuligine. A me questo pezzo piace proprio tanto. Vediamo se il volume si è alzato anche da te. Fammi un test di parole. 1, 2, 3. Sì, c'è anche parole. La co-conduttrice che le mettiamo il W occasionale. Speriamo che le occasioni siano tante, tante e sempre di più. Vero Claudia? Vero, vero Fedra, sì. Grazie a te, sento che avrò la forza di ritornare in grande diretta. Che la forza sia con te, Fedra, sì. Senti, a questo punto io direi che, visto che è scontato che... Sì, tutto a posto. Visto che è scontato che alla fine questa co-conduzione ce la facciamo, potremmo portarci avanti a studiare un po' quello che potrebbe essere qualche cosa su cui concordare a livello di palinsesto. E quindi io, per fare una nuova cosa, un po' così, un po' molto social, questa, proviamo a evolvere il COX, sì, in questa direzione, ho aperto il tuo profilo Facebook. Ah. E ad esempio una foto che mi incuriosisce molto, sì, è questa che hai pubblicato ieri alle 18.44. Aspetta che la vado a prendere. Mark Jacob, c'è questo bellissimo costume, questa vestito. Lui è uno stilista che è veramente spaziale, è spaziale, e consiglio, cioè, consiglio a tutti, anche gli uomini, a visionare le creazioni di Mark Jacobs. E quindi, perché questo qui, in cui la modella ha questa posa estremamente teatrale, fra l'altro con la parrucca, sì, grigia, che insiste, io, pensati, l'altro giorno sono andata a trovare mia mamma, sì, che per la prima volta dopo tanto mi ha visto alla luce del sole, che l'ho accompagnata a far la spesa, sì, che di solito ci vediamo in casa e via dicendo, ma ha fatto tradimento! Tu, traditrice! Io, mamma, cosa c'è? Hai i capelli grigi, devi coprirteli! Ma come, mamma? Ce li ho così da 4 anni! Il problema è che ne hai pochi, ne devi aver di più, Fedra, sì. Tutti grigi, tutti! Ma quindi anche tu mi dici che è meglio coprirli in questa fase? No, ah, no, dai, no, dai, no, dai. No, perché sembra uno spazio teatrale. Che... Sì, allora, questo è praticamente... Allora, lui è uno stilista. E il suo disegno si rifà un po' a quello che era la moda fine anni 60 e inizio anni 70. Infatti puoi vedere anche l'acconciatura, uh-huh, molto cotonata, molto gonfia, stile fine anni 60. E comunque le mannequin, le modelle in quel periodo, la moda in quel periodo, amava la posa teatrale in una maniera smisurata, e lui la va a riproporre.